Il terzo anello, ad alta voce. Speciale Pierpaolo Pasolini. Michele Di Mauro legge da Lettere Luterane I Giovani Infelici. Introduzione di Alfonso Berardinelli. Parliamo di Pierpaolo Pasolini, uno degli scrittori più importanti della seconda metà del Novecento e, a quanto sembra, anche dalle reazioni della pubblica opinione, dei giornali, di tutte le personalità intellettuali e politiche che sono intervenute su di lui, sulla sua storia, sul significato dei suoi scritti, abbiamo l'impressione che, contrariamente a quello che alcuni potevano prevedere, l'importanza pubblica, artistica, letteraria, politica di Pasolini, invece di diminuire, sta aumentando. Ma perché parliamo tanto di Pasolini? Anzitutto perché è uno scrittore anomalo, soprattutto anomalo nella letteratura italiana, composta prevalentemente anche magari di autori eccellenti, di ottima qualità, di straordinari artigiani, di probi intellettuali, ma di pochi scrittori personaggio, di pochi scrittori che abbiano affrontato con coraggio, in modo spericolato e anche autolesionistico, tragicamente autolesionistico, i problemi della società italiana. È stato detto che Pasolini era uno scrittore disperatamente italiano. E ora che l'Italia diventa un paese sempre più marginale, sempre più piccolo, anche per chi ci abita, anche per noi che ci viviamo, sembra quasi che in Italia nulla succeda, nulla possa di nuovo accadere di importante. L'essere disperatamente italiano per Pasolini significava essere assolutamente, tragicamente innamorato di un'Italia, legato personalmente con la propria esperienza esistenziale, personale, erotica, ma anche letteraria, intellettuale, ad un'Italia che tra gli anni 60 e l'inizio degli anni 70 stava sparendo. E questo è il suo grande tema. Nel momento in cui la maggior parte degli intellettuali italiani più giovani, gli studenti per esempio, ma anche più anziani, erano impegnati, secondo una cultura e un punto di vista marxista, rivoluzionario, a prospettare una transizione dal capitalismo al socialismo ed eventualmente al comunismo, come sola prospettiva auspicabile e possibile alla crisi italiana, Pasolini viceversa fa il contrario e diventa uno scrittore non solo personaggio, ma scandalo. Oggi viene celebrato, stimato da tutti, gli vengono riconosciuti molti meriti, sono pochi coloro che ancora osano fargli delle obiezioni molto forti, anche se non c'è dubbio che si potrebbero discutere anche approfonditamente, anche in modo molto radicale, alcune delle sue opinioni. Però c'è intorno a lui, giustamente credo, un rispetto che corre d'altra parte il rischio di diventare celebrazione e rimozione, cioè ignoranza, occultamento del suo scandalo, di ciò che lui disse. Non ci si chiede se le proposte che fece in quegli anni potrebbero essere praticabili oggi. Dunque, che cosa fa Pasolini in quegli anni? Soprattutto qui parliamo degli scritti corsari e delle lettere luterane. Nota una trasformazione, anzitutto fisica, ma ovviamente non c'è forma fisica che non abbia un significato psicologico, morale, antropologico e anche indirettamente politico. Nota la trasformazione dei giovani, sottolinea la loro bruttezza, il desiderio dei giovani italiani che lui osservava di diventare brutti, cioè di mascherarsi da brutti, di imbruttirsi, di avere un'idea aggressiva della bellezza. Quindi secondo lui i giovani si stavano imbruttendo, direi anzitutto moralmente e culturalmente. Che si siano imbruttiti culturalmente io credo che non c'è dubbio, perché non ci sia dubbio, perché in effetti un certo rifiuto della cultura, una incapacità di nutrire quella stessa serietà nei confronti del passato che c'era nei decenni precedenti, questa serietà sembra declinata, caduta. L'altro punto che lui affronta è l'ideologia dei diritti. Si potrebbe perfino dire che una generazione che è infatuata dei diritti e non sa più che cosa sono i doveri diventa moralmente brutta. Moralmente brutta perché? Perché diventa assolutamente egocentrica. Viene assorbita, fagocitata da una specie di narcisismo del diritto, per cui si possono avere solo diritti e le avanguardie di questi giovani impegnati politicamente, che erano appunto i giovani del 68 e dell'inizio degli anni 70, erano dei giovani che tendevano a diffondere in tutta la società l'idea che tutti avessero dei diritti e questi diritti venivano conculcati. Naturalmente ignorando, qui non ne parla abbastanza probabilmente Pasolini, ciò che si oppone ai diritti, cioè i doveri. In realtà i giovani del 68, se posso io aggiungere una chiosa, una glossa, erano ossessionati anzitutto dai loro doveri. Anche la diffusione dei diritti era per loro un dovere. È stata quella del 68 in Italia, dico io, non Pasolini, l'ultima generazione rigoristica, moralistica, autopunitiva in un certo senso, salvo eccezioni e salvo poi sviluppi degenerativi di tipo terroristico degli anni 70, della seconda metà degli anni 70, ma era una generazione che in realtà offriva alla storia italiana l'ultimo episodio del moralismo piccolo borghese. Cioè, fare qualcosa per chi sta più in basso di noi, fare qualcosa per salvare chi avrà un destino peggiore del nostro, diffondere fra loro la coscienza dei diritti, magari dei loro diritti, magari rinunciando noi in parte ai nostri. I giovani infelici. Uno dei temi più misteriosi del teatro tragico greco è la predestinazione dei figli a pagare le colpe dei padri. Non importa se i figli sono buoni, innocenti, pii. Se i loro padri hanno peccato, essi devono essere puniti. È il coro, un coro democratico, che si dichiara depositario di tale verità e la enuncia senza introdurla e senza illustrarla, tanto gli pare naturale. Confesso che questo tema del teatro greco io l'ho sempre accettato come qualcosa di estraneo al mio sapere, accaduto altrove e in un altro tempo. Non senza una certa ingenuità scolastica, ho sempre considerato tale tema come assurdo e a sua volta ingenuo, antropologicamente ingenuo. Ma poi è arrivato il momento della mia vita in cui ho dovuto ammettere di appartenere senza scampo alla generazione dei padri. Senza scampo perché i figli non solo sono nati, non solo sono cresciuti, ma sono giunti all'età della ragione e il loro destino quindi comincia a essere ineluttabilmente quello che deve essere, rendendoli adulti. Ho osservato a lungo in questi ultimi anni questi figli. Alla fine il mio giudizio, per quanto esso sembri anche a me stesso ingiusto e impietoso, è di condanna. Ho cercato molto di capire, di fingere di non capire, di contare sulle eccezioni, di sperare in qualche cambiamento, di considerare storicamente, cioè fuori dai soggettivi giudizi di male e di bene, la loro realtà. Ma è stato inutile. Il mio sentimento è di condanna. I sentimenti non si possono cambiare. Sono essi che sono storici. È ciò che si prova che è reale, malgrado tutte le insincerità che possiamo avere con noi stessi. Alla fine, cioè oggi, primi giorni del 75, il mio sentimento è, ripeto, di condanna. Ma poiché forse condanna è una parola sbagliata, dettata forse dal riferimento iniziale al contesto linguistico del teatro greco, dovrò precisarla. Più che una condanna, infatti il mio sentimento è una cessazione di amore. Cessazione di amore che appunto non dà luogo a odio, ma a condanna. Io ho qualcosa di generale, di immenso, di oscuro da rimproverare ai figli. Qualcosa che resta al di qua del verbale, manifestandosi irrazionalmente nell'esistere, nel provare sentimenti. Ora, poiché io, padre ideale, padre storico, condanno i figli, è naturale che di conseguenza accetti in qualche modo l'idea della loro punizione. Per la prima volta in vita mia riesco così a liberare nella mia coscienza, attraverso un meccanismo intimo e personale, quella terribile, astratta fatalità del coro ateniese che ribadisce come naturale la punizione dei figli. Solo che il coro, dotato di tanta immemore e profonda saggezza, aggiungeva che ciò di cui i figli erano puniti era la colpa dei padri. Ebbene, non esito neanche un momento ad ammetterlo, ad accettare cioè personalmente tale colpa. Se io condanno i figli a causa di una cessazione di amore verso di essi e quindi presuppongo una loro punizione, non ho il minimo dubbio che tutto ciò accada per colpa mia, in quanto padre, in quanto uno dei padri che si sono resi responsabili prima del fascismo, poi di un regime clerico-fascista, fintamente democratico e infine hanno accettato la nuova forma del potere, il potere dei consumi, ultima delle rovine, rovina delle rovine. La colpa dei padri che i figli devono pagare è dunque il fascismo, sia nelle sue forme arcaiche che nelle sue forme assolutamente nuove, nuove senza equivalenti possibili nel passato? Mi è difficile ammettere che la colpa sia questa, forse anche per ragioni private e soggettive. Io personalmente sono sempre stato antifascista e non ho accettato mai neanche il nuovo potere di cui in realtà parlava Marx profeticamente nel manifesto, credendo di parlare del capitalismo del suo tempo. Mi sembra che ci sia qualcosa di conformistico e troppo logico, cioè di non storico, nell'identificare in questo la colpa. Thank you. sento ormai intorno a me lo scandalo dei pedanti, seguito dal loro ricatto a quanto sto per dire. Sento già i loro argomenti: è retrivo, reazionario, nemico del popolo chi non sa capire gli elementi sia pur drammatici di novità che ci sono nei figli, chi non sa capire che essi comunque sono vita. Ebbene, io penso intanto che anch'io ho diritto alla vita, perché pur essendo padre, non per questo cesso di essere figlio. Inoltre per me la vita si può manifestare egregiamente, per esempio, nel coraggio di svelare ai nuovi figli ciò che io veramente sento verso di loro. La vita consiste prima di tutto nell'imperterrito esercizio della ragione, non certo nei partiti presi, e tantomeno nel partito preso della vita, che è puro qualunquismo. Meglio essere nemici del popolo che nemici della realtà. I figli che ci circondano, specialmente i più giovani, gli adolescenti, sono quasi tutti dei mostri. Il loro aspetto fisico è quasi terrorizzante, e quando non terrorizzante è fastidiosamente infelice. Orribili pelami, capigliature caricaturali, carnagioni pallide, occhi spenti, sono maschere di qualche iniziazione barbarica, squallidamente barbarica. Oppure sono maschere di una integrazione diligente e incosciente, che non fa pietà. Dopo aver elevato verso i padri barriere tendenti a relegare i padri nel ghetto, si sono trovati essi stessi chiusi nel ghetto opposto. Nei casi migliori essi stanno aggrappati ai fili spinati di quel ghetto, guardando verso noi, tuttavia, uomini come disperati mendicanti che chiedono qualcosa solo con lo sguardo, perché non hanno coraggio né forse capacità di parlare. Nei casi né migliori né peggiori, sono milioni. Essi non hanno espressione alcuna, sono l'ambiguità fatta carne. I loro occhi sfuggono, il loro pensiero è perpetuamente altrove, hanno troppo rispetto o troppo disprezzo insieme, troppa pazienza o troppa impazienza. Hanno imparato qualcosa di più in confronto ai loro coetanei di 10 o 20 anni prima, ma non abbastanza. L'integrazione non è più un problema morale, la rivolta si è codificata. Nei casi peggiori sono dei veri e propri criminali. Quanti sono questi criminali? In realtà potrebbero esserlo quasi tutti. Non c'è gruppo di ragazzi incontrato per strada che non potrebbe essere un gruppo di criminali. Essi non hanno nessuna luce negli occhi. I lineamenti sono lineamenti contraffatti di automi, senza che niente di personale li caratterizzi da dentro. La stereotipia li rende infidi. Il loro silenzio può precedere una trepida domanda di aiuto, che aiuto, o può precedere una coltellata. Essi non hanno più la padronanza dei loro atti, si direbbe dei loro muscoli. Non sanno bene qual è la distanza tra causa ed effetto. Sono regrediti sotto l'aspetto esteriore di una maggiore educazione scolastica e di una migliorata condizione di vita a una rozzezza primitiva. Se da una parte parlano meglio, ossia hanno assimilato il degradante italiano medio, dall'altra sono quasi afasici, parlano vecchi dialetti incomprensibili o addirittura tacciono, lanciando ogni tanto urli gutturali e interiezioni tutte di carattere osceno. Non sanno sorridere o ridere, sanno solo ghignare o sghignazzare. In questa enorme massa, tipica soprattutto ancora una volta dell'inerme centro-sud, ci sono delle nobili élite a cui naturalmente appartengono i figli dei miei lettori. Ma questi miei lettori non vorranno sostenere che i loro figli sono dei ragazzi felici, disinibiti o indipendenti, come credono e ripetono certi giornalisti imbecilli, comportandosi come inviati fascisti in un lager. La falsa tolleranza ha reso significative, in mezzo alla massa dei maschi, anche le ragazze. Esse sono in genere personalmente migliori. Vivono infatti un momento di tensione, di liberazione, di conquista, anche se in modo illusorio, ma nel quadro generale la loro funzione finisce con l'essere regressiva. Una libertà regalata, infatti, non può vincere in esse, naturalmente, le secolari abitudini alla codificazione. Certo, i gruppi di giovani colti, del resto assai più numerosi di un tempo, sono adorabili perché strazianti. Essi, a causa di circostanze che per le grandi masse sono finora solo negative e atrocemente negative, sono più avanzati, sottili, informati dei gruppi analoghi di 10 o 20 anni fa. Ma che cosa possono farsene della loro finezza e della loro cultura? Dunque, i figli che noi vediamo intorno a noi sono figli puniti. Puniti intanto dalla loro infelicità. E poi in futuro chissà da che cosa, da quali ecatombi. Questo è il nostro sentimento, insopprimibile. Ma sono figli puniti per le nostre colpe, cioè per le colpe dei padri. È giusto? Era questa in realtà, per un lettore moderno, la domanda senza risposta del motivo dominante del teatro greco. Ebbene sì, è giusto. Il lettore moderno ha vissuto infatti un'esperienza che gli rende finalmente e tragicamente comprensibile l'affermazione, che pareva così ciecamente irrazionale e crudele, del coro democratico dell'antica Atene, che i figli, cioè, devono pagare le colpe dei padri. Infatti, i figli che non si liberano delle colpe dei padri sono infelici, e non c'è segno più decisivo e imperdonabile di colpevolezza che l'infelicità. Sarebbe troppo facile, e in senso storico e politico immorale, che i figli fossero giustificati in ciò che c'è in loro di brutto, repellente, disumano, dal fatto che i padri hanno sbagliato. L'eredità paterna negativa li può giustificare per una metà, ma dell'altra metà sono responsabili loro stessi. Non ci sono figli innocenti. Tieste è colpevole, ma anche i suoi figli lo sono. Ed è giusto che siano puniti anche per quella metà di colpa altrui di cui non sono stati capaci di liberarsi. Resta sempre tuttavia il problema di quale sia in realtà tale colpa dei padri. È questo che sostanzialmente alla fine qui importa. E tanto più importa in quanto, avendo provocato una così atroce condizione nei figli e una conseguente così atroce punizione, si deve trattare di una colpa gravissima. Forse la colpa più grave commessa dai padri in tutta la storia umana. E questi padri siamo noi. Cosa che ci sembra incredibile. Come ho già accennato, intanto, dobbiamo liberarci dall'idea che tale colpa si identifichi col fascismo vecchio e nuovo, cioè dell'effettivo potere capitalistico. I figli che vengono oggi così crudelmente puniti dal loro modo di essere, e in futuro certo da qualcosa di più oggettivo e di più terribile, sono anche figli di antifascisti e di comunisti. Dunque fascisti e antifascisti, padroni e rivoluzionari hanno una colpa in comune. Tutti quanti noi, infatti, fino a oggi, con inconscio razzismo, quando abbiamo parlato specificamente di padri e di figli, abbiamo sempre inteso parlare di padri e di figli borghesi. La storia era la loro storia. Il popolo, secondo noi, aveva una sua storia a parte, arcaica, in cui i figli semplicemente, come insegna l'antropologia delle vecchie culture, reincarnavano e ripetevano i padri. Oggi tutto è cambiato. Quando parliamo di padri e di figli, se per padri continuiamo sempre a intendere i padri borghesi, per figli intendiamo sia i figli borghesi che i figli proletari. Il quadro apocalittico che io ho abbozzato qui sopra dei figli comprende borghesia e popolo. Le due storie si sono dunque unite, ed è la prima volta che ciò succede nella storia dell'uomo. Tale unificazione è avvenuta sotto il segno e per volontà della civiltà dei consumi, dello sviluppo. Non si può dire che gli antifascisti in genere, e in particolare i comunisti, si siano veramente opposti a una simile unificazione, il cui carattere è totalitario, per la prima volta veramente totalitario, anche se la sua repressività non è arcaicamente poliziesca e semmai ricorre a una falsa permissività. La colpa dei padri, dunque, non è solo la violenza del potere, il fascismo, ma essa è anche, primo, la rimozione della coscienza da parte di noi antifascisti del vecchio fascismo, secondo, e soprattutto l'accettazione, tanto più colpevole quanto più inconsapevole, della violenza degradante e dei veri, immensi genocidi del nuovo fascismo. Perché tale complicità col vecchio fascismo? E perché tale accettazione del nuovo fascismo? Perché c'è, ed eccoci al punto, un'idea conduttrice sinceramente o insinceramente comune a tutti. L'idea cioè che il male peggiore del mondo sia la povertà, e che quindi la cultura delle classi povere deve essere sostituita con la cultura della classe dominante. In altre parole, la nostra colpa di padri consisterebbe in questo. nel credere che la storia non sia e non possa essere che la storia borghese. Michele Di Mauro ha letto da Lettere Luterane di Pierpaolo Pasolini I Giovani Infelici, speciale a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carovolante e Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it